Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nel 1927 il governo fascista di Benito Mussolini avvia una radicale riorganizzazione della radiofonia, che fino ad allora aveva operato in una dimensione industriale prevalentemente privata. Tra i soci dell'Unione Radiofonica Italiana figurava infatti anche la Fiat. E l'Unione Radiofonica operava in regime di monopolio, era nata il 27 agosto del 1924 e fu la prima società di gestione del servizio radiofonico a livello nazionale. Poi nel 1927 nacque l'EIAR, che ottenne dal governo la concessione esclusiva a trasmettere contenuti radiofonici in Italia. Poi nel corso degli anni 30 nacquero nuove stazioni e una di esse venne installata a Bari. E di questo parliamo questa sera. L'inaugurazione delle trasmissioni avvenne nel settembre del 1932 in occasione della Fiera del Levante. Chiaro l'intento propagandistico, ma anche quello economico, rivolto al bacino mediterraneo e ai Balcani. Allora, ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, traendo spunto dal libro L'Italia combatte, la voce della resistenza di Radio Bari, scritto per Odradec da Piero Cavallari e Antonella Fischetti dell'Istituto dei Beni Sonori e Audiovisivi, entrambi studiosi di storia contemporanea e che figurano tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana di Storia Orale. Buonasera e benvenuti a entrambi. Buonasera, buonasera. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti che lottano contro i tedeschi. Allora, Piero Cavallari, in sostanza Radio Bari, che da voce del regime, così come l'abbiamo raccontata in questa breve presentazione, a voce della resistenza, dunque una importante trasformazione, una metamorfosi direi radicale. Sì, proprio un cambiamento radicale, come si dice, 180 gradi proprio, completo. Come si caratterizza allora questo cambiamento? Allora, si caratterizza ovviamente anche per, come si dice, motivi oggettivi, insomma, un territorio liberato dagli alleati, dove tra l'altro poi anche la corona, oltre che il governo provvisorio, insomma, si insedia. E gli alleati, soprattutto diciamo da parte inglese, diciamo, degli alleati molto attenta alla guerra di controinformazione, alla guerra diciamo anche di propaganda psicologica, si prende proprio diciamo mano militari la stazione di Radio Bari, che non era stata completamente smobilitata dal punto di vista anche tecnico e tecnologico, insomma, dalle forze del regime fascista che si erano ritirate, e installa questa nuova stazione che prende appunto una piega completamente diversa da quella che aveva avuto, certo, prima dell'arrivo degli alleati. È interessante perché se anche l'aspetto bellico di guerra è fondamentale, insomma, quindi è una classica radio di guerra che cerca, oltre che fare una informazione utile ai combattenti, ma anche una controinformazione di propaganda, come avviene in modo esponenziale durante periodi bellici, però è anche un crogiolo di menti, di culture che saranno quelle che poi di fatto impianteranno la radio repubblicana, democratica nel dopoguerra. Certo, tutta un'altra cosa, anche perché abbiamo raccontato che quando appunto Mussolini decise questa riorganizzazione, Radio Bari aveva anche un intento, come dire, geopolitico, poiché si rivolgeva al bacino mediterraneo, ai Balcani, tanto che alcune trasmissioni addirittura erano trasmesse in arabo. Ovviamente tutto questo viene meno nella metamorfosi resistenziale. Certamente, ma su questo ecco possiamo dire che il regime fascista con Radio Bari fu abbastanza lungimirante, no? Questa proiezione economicista e di appunto propagazione geopolitica nei confronti del Medio Oriente e dei Balcani, in fondo una dinamica che poi ci ricordiamo anche con l'Italia democratica avverrà, e non a caso poi anche la Fiera del Levante è rimasta un appuntamento sempre molto importante, no? Certo. Dal punto di vista economico, culturale, nell'Italia anche democratica, insomma. Certo, certo. Ecco, volevo chiedere ad Antonella Fischetti quali trasmissioni si segnalano come le più importanti di Radio Bari in questo periodo della lotta, della resistenza al nazifascismo. Dunque, è molto difficile parlare di importanza delle trasmissioni. Intanto ricordiamo che questi dischi sopravvissuti sono appunto delle sopravvivenze, perché erano dei dischi originariamente di vetro prodotti dalla Presto Recording Corporation e quindi a 33 rotazioni al minuto, quindi già questo è molto, ne fa di tutto il corpus un corpus abbastanza interessante. Sono in tutto 73 trasmissioni, quelle sì, sopravvissute da febbraio a dicembre del 44, più ci sono due trasmissioni del 1945 dove già si comincia a vedere proprio nel linguaggio la liberazione. Una trasmissione insomma che può essere considerata interessante perché sia paradigmatica di quello che poi è stata la resistenza, e l'elemento veramente alla fine unificante della resistenza è quella del 24 maggio del 44. La trasmissione praticamente che inizia con diciamo tutte le direttive del quartier generale del generale Alexander e del comando supremo italiano, dove parla appunto di che il giorno dell'azione è vicina, di tutte le battaglie in corso, dopo i bollettini eccetera, c'è proprio una rubrica che viene titolata 24 maggio, dove nella quale leggo proprio, dice: voi soldati italiani che vestite il vecchio grigio verde dell'esercito del Piave, voi che in faccia all'eterno nemico, redenti della condanna dell'ingiusta guerra fascista, ricantate le canzoni del Grappa di Vittoria Veneto eccetera eccetera, e termina proprio 24 maggio 1915, 24 maggio 1944, lo stesso nemico, gli stessi alleati, gli stessi ideali, la stessa fede nella vittoria. Certo. Diciamo è emblematico perché forse è questo veramente, non soltanto perché l'Italia ovviamente ormai schierata fa parte dell'Occidente, cioè fa parte cioè gli alleati angloamericani, ma perché forse è l'unico veramente filo che può rappresentare l'unità che ha avuto la resistenza, nonostante tutti i problemi poi all'interno tra le varie parti politiche in lotta. Infatti sì, ma volevo anche chiedere a tutte e due poi qual è l'importanza di questo fondo e anche di questo materiale dal punto di vista sonoro per la memoria storica del paese. Allora, intanto questo materiale è stato l'idea che ha contraddistinto questo fondo, intanto che è proprio un fondo originale, nel senso che anche negli archivi, all'Archivio Centrale dello Stato e oltre, ci sono le veline scritte delle trasmissioni, perché era molto difficile e raro anche registrare, quindi già questa è una fonte originale in quanto quello che è davvero andata in onda. Certo, sui nastri e sui dischi noi lo sentiamo molto meglio di come lo sentivano gli italiani, partigiani e non al momento, dato che ci furono proprio delle note indirizzate di disturbo da parte tedesca proprio rivolte a Radio Bari, ma è interessante appunto quindi per la sua originalità e perché nonostante siano poche però dà veramente l'idea di questo avanzare, di questa avanzata della resistenza, cioè della liberazione. Ricordiamo che c'è diciamo le voci, gli speaker che leggono tutte queste notizie sono di speaker che saranno poi molto famosi nella radio, nella Rai del dopoguerra, così come per esempio Arnoldo Fa, perché le registrazioni che abbiamo, questo è forse il dato più diciamo da sottolineare, non sono quelle del primo periodo proprio subito dopo l'8 settembre da Bari, sono quelle che di quando diciamo la Radio Bari, diciamo la sede viene spostata a Napoli perché diventa lì il centro di smistamento della informazione, perché a Bari si era sotto il controllo inglese con il maggiore Greenleaf, che era un grandissimo, veramente, che fu molto importante, un grande intellettuale che amava molto l'Italia come molti inglesi, si sposta a Napoli, dove ci sarà, diciamo, quindi per sì. molti nostalgici, insomma, è come se cadesse un po'. Non il livello culturale, però diciamo ci si avvicina più ai modelli, quelli che saranno poi dell'Italia, quelli che americani. Conosciamo meglio. Ecco, allora un'ultima battuta, Piero Cavallari, sì. su questo aspetto, c'è cioè, anche se vuole integrare sull'importanza di questo fondo per la memoria storica del paese? Beh, diciamo avere l'originalità di un documento che appunto è nato radiofonico, quindi con una voce che da una lettura, mi rendo conto anche del libro che abbiamo appunto appena sì. Curato e pubblicato, ma che comunque serva la possibilità di ascoltarlo e ha per noi, diciamo, ecco, questa componente di fonte che ha la possibilità di portarti proprio quasi fisicamente in quel momento, anzi senza quasi, perché ascoltando, diciamo, un documento originale che è nato con la sua sonorità, con la sua vocalità, con la sua pure, diciamo, vocalità di spinta proprio a resistere, a liberare il paese, ovviamente dalla lettura anche del nostro libro non si percepisce. Per fortuna però si può anche ascoltare l'importanza degli archivi come appunto certo. l'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, ma non solo, di tutti gli archivi, di tutte le biblioteche, che servono è quelli di conservare la memoria. Dopodiché ognuno con questa ci farà esatto. i suoi ricerchi, i suoi conti, ma rimane lì e sarà sempre a disposizione di tutti gli studiosi, di chiunque vorrà consultare questa importantissima domanda. Allora io appunto nel ringraziare entrambi, ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione, saluterei i nostri ascoltatori appunto con un piccolo sonoro tratto da Radio Bari. L'Italia Combatte viene trasmessa ogni sera dalle 23.10 alle 23.30 da Radio Bari, metri 283, Radio Napoli, metri 228, Radio Palermo, metri 531. La trasmissione è ripetuta per registrazione ogni mattina alle ore 7 da Radio Bari.